Benvenuti al consueto appuntamento dei podcast di Rivista Militare. L'articolo di oggi è il numero 3 del 2021 e il titolo è L'uomo ha bisogno di riti. Le cerimonie ai tempi del Covid di Simone Tarantino. Saremo in grado di tornare alle vecchie abitudini? Oppure dovremo riscrivere il modo di fare cerimoniale o di essere cerimonieri una volta per tutte? Quale tipologia di rivoluzione stiamo vivendo? Che metamorfosi avverranno negli eventi pubblici? L'uomo ha bisogno di riti. Il coronavirus ha rivoluzionato e talvolta ribaltato le nostre abitudini e il nostro modo di interagire con gli altri, e generando tuttora eccezioni. E si sa, con il tempo le eccezioni diventano consuetudini e le consuetudini regole. I nostri giorni sono caratterizzati da una sorta di sconvolgimento. Si pensi all'utilizzo quotidiano della mascherina, oppure dei quasi scomparsi abbracci o strette di mano come gesti di affetto e saluto. Si vedono sempre meno nelle cerimonie i momenti dello scambio dei doni da parte delle autorità e ad oggi sono bandite le parate militari. Il tutto a favore di sempre maggiori videoconferenze a sostituzione di incontri, lezioni e eventi. L'esempio più eclatante di questa tendenza è rappresentato dalla costituzione dell'ambasciata virtuale degli Stati Uniti d'America a San Marino. Il simbolo rappresentativo del governo di una nazione, assieme all'esigenza di mantenere i rapporti ufficiali tra due interi stati, sono stati posti ai minimi termini, creando un sito internet dedicato. Il cosiddetto effetto pandemia ha colpito particolarmente il comparto del cerimoniale, che fa delle relazioni sociali un punto cardine, ma che è riuscito in un ristretto lasso di tempo ad adattare la propria struttura ed il proprio modus operandi con nuove metodologie, in piena sicurezza e nel rispetto delle normative emergenziali. Risuona infatti continuamente l'imperativo del distanziamento sociale, ma il concetto di spazio non è assolutamente estraneo al protocollo. Sin dagli albori della civiltà, infatti, la distanza è direttamente proporzionale al rispetto attribuito all'autorità e strettamente collegata con la sicurezza dell'autorità stessa. Al giorno d'oggi abbiamo il dovere di tenerci a distanza. E poiché ad ogni distanza corrisponde un significato ben preciso, con il trascorrere del tempo ci abitueremo a cambiare il senso del distacco e conferiremo alla prossemica un valore ancora più pregnante e profondo. Appare evidente, tuttavia, come l'esasperazione di tale dimensione porti a una maggiore essenzialità della cerimonia stessa, che deve assolutamente essere mantenuta, a costo di attuarla in solitudine. Al contrario di quanto si possa pensare, forma e sostanza non costituiscono entità distinte o separate, né tantomeno gerarchicamente ordinabili, ma la prima della seconda è la sua più autentica espressione. Vengono così a fondersi in un'unica essenza il significato della cerimonia e il gesto dell'autorità, che conferiscono all'evento maggiori intensità e coinvolgimento spirituale. Si pensi ad esempio alla deposizione della corona all'altare della patria da parte del capo dello Stato in occasione del 75° anniversario della liberazione il 25 aprile 2020, quando il pubblico è materialmente inesistente. Piazza Venezia, avvolta in una sorta di isolamento e in primo piano soltanto il Presidente della Repubblica e la corona nel loro incedere verso il monumento ai caduti, mentre in una quiete surreale le note del silenzio risuonano solenni e profonde, quasi viscerali. Questi pochi elementi costituiscono fattivamente l'essenza stessa della cerimonia e il pubblico che segue l'evento da casa rimane quasi assorto nel mirare tali fattori dei quali in passato e attorniato da una fiumana di gente non sarebbe mai riuscito a godere appieno. In questo contesto sempre più complesso e mutevole, il quinto reparto affari generali dello Stato Maggiore dell'Esercito è chiamato a operare per affrontare con efficacia gli impegni istituzionali sempre serrati. L'esigenza di ridurre il protocollo in termini di persone coinvolte, ovvero in termini di programma, impone anche una maggiore attenzione nelle scelte. L'invito esteso a una tipologia di ospiti piuttosto che a un'altra, nonché la scelta di determinate fasi all'interno del programma, possono comportare un taglio diverso all'evento e indirizzare l'attenzione verso differenti focus. Qui il cerimoniale è chiamato a intervenire con molta flessibilità, rendendo il protocollo aderente alle varie occasioni. Nell'ultima cerimonia di avvicendamento nella carica di capo di Stato Maggiore dell'Esercito, a cui hanno partecipato le più alte cariche militari e politiche regionali, l'eminenza degli ospiti, assieme alla semplicità del protocollo, hanno reso questo evento più solenne e significativo. Il passaggio della bandiera di guerra dell'Esercito ha catalizzato totalmente l'attenzione anche da parte del pubblico che seguiva l'avvenimento in streaming e nell'estrema austerità della cerimonia ha dato più forza alla solennità dell'evento. La flessibilità coerente ha fatto sì che venissero realizzati gli eventi essenziali a discapito di quelli ritenuti superflui. Questo processo selettivo ha di fatto consolidato nuovi contenuti di carattere etico, istituzionale e simbolico, che hanno indotto modifiche sul protocollo, attagliandoli alle varie circostanze. Nelle occasioni in cui il capo dello Stato Maggiore dell'Esercito ha voluto salutare il personale e le sue dipendenze, è venuta meno la possibilità di organizzare un qualsivoglia meeting di grande portata, come accaduto negli anni scorsi. I cosiddetti gesti di barriera non hanno però bloccato l'esigenza delle cerimonie, perché le relazioni umane le richiedono costantemente ed è inconfutabile che nell'essenza della società stessa è insito il concetto di rito. Nella cultura occidentale gran parte dei gesti di affetto, benvenuto o stima si racchiudono in una stretta di mano di varie intensità, oppure in una mano sulla schiena o una pacca sulla spalla o semplicemente in un abbraccio. È facile notare come la tendenza attuale stia sostituendo tali comportamenti con il gesto di giungere le mani o di portare la destra sul cuore. È sempre più sconsigliabile prevedere un pranzo formale in quanto la distanza tra i commensali per limitare la diffusione del virus comprometterebbe la convivialità dell'evento. Non solo, anche le portate sarebbero ridotte ad algide monoporzioni igienizzate che potrebbero risultare poco gradevoli. Queste precauzioni in termini di sicurezza però non devono assolutamente instillare dubbi o ansia nei partecipanti, anzi hanno l'onere di regalare loro la consapevolezza di partecipare all'evento in massima sicurezza e serenità. Il lavoro del cerimoniale a questo punto diventa sempre più complesso. Ad ogni cerimonia o manifestazione ne corrispondono esattamente due, una strutturata online e l'altra organizzata materialmente in loco. Ambedue poi hanno la stessa importanza in quanto, per la caratura e i numeri degli ospiti, sono egualmente fondamentali per l'ottima riuscita dell'avvenimento stesso. I partecipanti a distanza, con una fitta corrispondenza più o meno formale, vengono fatti sentire parte integrante della cerimonia. La produzione di brochure, cartoncini o lettere d'invito, introduzioni esplicative dell'evento o qualsiasi altra forma di prodotto cartaceo o informatico comporta un maggiore dispendio di energie organizzative a vantaggio dell'ospite, il quale, dall'altro capo del computer, deve essere aggiornato sull'evolversi della manifestazione e deve possedere gli strumenti adatti per avere la possibilità di intervenire con cognizione di causa e in ogni momento. D'altro canto, la partecipazione fattiva di una ristretta cerchia di invitati impone meticolosità. Ogni singolo particolare passa al vaglio dei cerimonieri, i quali si devono raffrontare con una visione dell'attività reale, ma tenendo anche in considerazione l'occhio delle telecamere, che risulta impietoso di fronte anche al singolo particolare fuori posto, come uno sfondo imperfetto o un rumore di troppo. Anche il grande Charles Bukowski sentenziava che un dettaglio è una cosa minuscola, ma cose di questa grandezza riescono a fare la differenza. La pandemia sta lanciando una grande sfida al cerimoniale, chiedendo di essere quanto mai flessibile e creativo, rimanendo tra i massimi canoni di sicurezza, non tralasciando la cultura che appartiene ai popoli e facendo continuamente affidamento allo stretto connubio che intercorre tra uomo, riti e società.